E direi che sono anche molto orgogliosa di essere riuscita a mettere un jingle in diretta, e quindi lascio a te la parola, Alessandro, che rappresenti e saluti, che vorrei anche salutare Gian Lorenzo, detto Giallo De Sanctis, e Cristian Battiferro, che insieme a te fanno parte, insomma, di Corobu. Avete presentato, siete usciti con un nuovo album di recente, e io non vedo l'ora di mettere le tracce, ma intanto ti chiedo a te, ho scoperto che sei veneto come me, quindi, esatto. Quindi già partiamo con questa notizia off topic. e cosa ci vuoi raccontare? Quando siete nati? Che cosa vorresti dirci stasera? Corobu nascono, insomma, circa 3 o 4 anni fa, secondo me era il 2018 o la fine del 2018. Dopo che ci siamo scritti in privato, ci siamo incontrati, abbiamo messo in piedi un piccolo studio nostro, dove abbiamo sistemato i nostri oggetti preziosi e ricercati, e che teniamo lì per fare quello che amiamo fare, ovvero fare canzoni, fare musica e registrare soprattutto anche la nostra musica. E quindi niente, nasciamo 4 anni fa, dopo un periodo di stop che ci ha visto coinvolti tutti e provenienti da progetti, insomma, precedenti, che si sono per ragioni diverse fermati. E, insomma, io e Cristian già suonavamo assieme, Cristian è il batterista, mentre Gian Lorenzo militava in altre band, di Bass Aldrin, e ci conoscevamo vicendevolmente per i vostri trascorsi musicali, cioè eravate già notati a vicenda su quello che professionalmente facevate, giusto? Esattamente, e nulla, insomma, era curioso e stimolante pensare di fare qualcosa assieme, ci siamo scritti così d'amblée e la cosa è nata, insomma, poi da lì... Domanda a bruciapelo, cosa significa Corobu? Allora, scritto con la K. Corobu è un termine giapponese che significa... precipitare, fallire, cadere, svanire, ha tantissime accezioni diverse, dalla più metafisica alla più filosofica, vuol dire anche abiurare, e quello è l'aspetto forse più religioso. Sostanzialmente era l'atto che i monaci buddisti imponevano ai gesuiti nel Medioevo, che tentavano appunto di cristianizzare l'isola, e venivano catturati, in qualche modo torturati, e se non si arrendevano e facevano appunto questo atto di abiura della propria fede, che si chiama Corobu, erano fregati, erano, diciamo, morti, sì. Erano belli che fregati, quindi Corobu è una sorta di lasciarsi andare nel bene e nel male, di mollare ogni tipo di così blocco, freno o ostacolo nei casi più truci o tragici, no? Esatto. Bello, molto bello. Cosa ne dici? Mettiamo subito Weird Voices, sì, dell'album di Fade in Building. Non posso dire di esordio, però è uscito. No, è d'esordio. D'esordio. Sì. Perfetto. Sì. Non posso dire sì, è recentissimo, perché è. Da aprile è uscito. Non d'esordio come voi come musicisti, però d'esordio, esatto, come esatto. Band. E allora al via Weird Voices. Come to us and never bring your demons. Come to us and always bring your demons. You will never fail your demons. So God. Wow. Wow, eccoci di nuovo in diretta su Radio Città Fujiko alla 421esima puntata di Coxo Spaziale con un ospite musicale che rappresenta una band musicale, Korobu, e siamo qua con Alessandro Rinaldi che esattamente in Korobu rappresenti, gestisci le chitarre e il synth, giusto? Esatto. Abbiamo appena ascoltato Wild Voices, la numero uno del disco Fading Building, e si legge sulla rivista Rolling Stones che è proprio un rock fuori dagli schemi per chi non vuole arrendersi, no? Però per chi si lascia andare, posso aggiungere io, per il termine di insomma che ci hai raccontato, che significa Korobu. Uh-huh. Io ho adorato questo pezzo quando l'ho ascoltato, quando me l'hai mandato. Beh. mi piace tantissimo il così tutto il sound, il titolo anche, perché io sono una di quelle che diciamo ama i titoli veramente delle canzoni. Che cosa ci vuoi dire di Fading Building, come è nata l'idea del disco, o a che cosa si riferisce, che cosa volete raccontare con questo disco d'esordio? Sostanzialmente una duplice, come dire, un duplice riferimento, il titolo, una parte diciamo più leggera è legata al nostro processo creativo, che è un fare disfare costantemente per lungo tempo prima di approdare a qualcosa che può lontanamente rappresentare una traccia finita e una riva d'approdo per un pezzo che può avere poi un titolo, un testo definitivo, eccetera eccetera. Quindi titolo alla fine, ma il testo alla fine anche, spesso e volentieri, perché appunto sì, all'inizio lo Giallo, che è il cantante che si occupa poi anche della stesura dei testi nel 90% dei casi, ha un metodo insomma suo di tracciare, di abbozzare la linea melodica per poi insomma approfondire il tutto, se la cosa ci convince, con la stesura del testo. E poi per quel che riguarda invece un allargare del significato di Fading Building, è un po', come dire, legato alle nostre storie personali, ovvero appunto, come ti dicevo prima, insomma ci siamo trovati in un periodo in cui era un po' svanito un orizzonte di azione, certo, sul fare la musica con altre persone. Non abbiamo mai smesso di farla a livello singolo, insomma, ma con la band era un po' in stand by da un po' di anni. Era un momento di rottura e di rinascita, cioè un classico limite, diciamo, che si attraversa. Esattamente, insomma, poi noi siamo nati all'interno di questo passaggio, e poi insomma il disco ha rappresentato un po' la fase più invece di costruzione di un perimetro diverso e di orizzonti anche diversi. E quindi insomma tutto ci portava a queste due realtà, e ci è piaciuto così a battezzarlo in questa fase duale, insomma, delle nostre esistenze, del nostro modo di fare. Ecco, quando esce un disco con tracce così ben assortite, ben riuscite, come esiste una traccia preferita? Una classica domanda così un po' non lo so. Cioè, tu che sei autore, io che sono ascoltatrice magari posso battezzarla, certo, con molta facilità una mia, sì, traccia preferita, però tu autore che cosa dici? Hai una tua... Allora, io ti dirò, succedono degli equilibri strani, perché ovviamente all'interno del gruppo, insomma, ognuno di noi ha la propria preferita o le proprie tre preferite. Ma poi le cose incredibilmente cambiano. Un esempio molto veloce, insomma, è dato da Get Lost, che è stata bistrattata e non doveva entrare nel disco. Okay. E invece alla fine. E invece alla fine è entrata e ha ricevuto tanti complimenti un po' a destra manca, è stata la preferita di tante persone di fuori di noi, e poi noi l'abbiamo in qualche modo rivisitata dal vivo, e c'è una parte finale dal vivo che ci piace tantissimo suonare, perché è una parte molto suonata, un po' insomma vecchio stile. E che quindi non si può ascoltare registrata, ma soltanto dal vivo. Soltanto dal vivo, e questa cosa insomma ce l'ha fatta ricoccolare, ecco. Bella questa cosa, che c'è una variazione che si può ascoltare soltanto dal vivo. Avete dei concerti in arrivo? Sì, abbiamo allora il 21 di questo mese, se non ricordo male, siamo al Bronson assieme ai White Hills. Wow. E poi il 29 invece siamo assieme ai Pincushion Queen qui a Bologna, che facciamo suoniamo con loro all'interno del loro release party di quello che sarà insomma la seconda pubblicazione di Locomotive Records, che sono appunto Pincushion Queen. E quindi insomma 21 e 29, sì. Perfetto, e per rimanere un po' aggiornati sulle vostre novità, avete un sito oppure canali social? Allora, abbiamo i social tutti, abbiamo fatto i compiti per casa. Grande, quindi abbiamo anche TikTok. Abbiamo anche TikTok. No, vabbè, non ci posso credere. Grande. Sì, sì, poi tra l'altro sono un po' io che mi occupo di sta cosa, e insomma devo ammettere che è un secondo lavoro. È un secondo lavoro, è una cosa che non amo molto fare, ma insomma al giorno d'oggi bisogna un po' piegarsi alle dinamiche di comunicazione, che sono diverse, sono tutte più giovani. Certo. E quindi che cosa suggerisci a chi ci sta ascoltando? Dove ti seguiamo? Allora, dove... Facebook, Instagram sono ovviamente i nostri due canali preferiti. Ecco, Facebook, okay, che è la vecchia guardia, Instagram mettiamo insomma delle storielle, ogni tanto un po' di vita da studio, quindi alla fine insomma ecco. Certo. Può essere carino seguirci. Certo, perfetto. Poi su coxospaziale.blogspot.com ricordiamo che metteremo tutti i tag e tutte le varie i vari link e anche le date del 21 e del 29 in arrivo. Metto un nostro carissimo ascoltatore un attimo in diretta, così lo ascolti anche tu. Diamo il ben arrivato, il bentornato a Marco Roma, il nostro. Buongiorno, scrivimi sulla mia pelle il tuo nome, così certo non lo scorderò mai più. Ci rivedremo il prossimo anno, se Dio vuole ci sarò sempre per te. Buongiorno da Marco Roma. Caspita, qua è importantissimo che tu devi sapere che Marco Roma è un nostro grandissimo, mi è partita la musica a palla, e Marco Roma è un grandissimo fan di, secondo me, di Coxo Spaziale, lo dico perché noi lo mettiamo sempre, ci manda questi audio di notte, quindi probabilmente abita o dall'altra parte del mondo o qua vicino, ed è sempre così felice, così innamorato, così solare, così incredibilmente Coxo Spaziale. E questa volta però ci ha detto se Dio vuole ci vediamo l'anno prossimo, quindi io sono veramente curiosa, Marco, se ci stai ascoltando, dove va? Dove sta andando? No? Bene, siamo qua con Corobu, con Alessandro Rinaldi alla 421 di Coxo Spaziale, Radio Città Fugico. Scriveteci alla diretta al 333 180 94 94. E intanto cosa dici? Metto un Rhodes? Sì, vado. Wow, un altro pezzo incredibile di Corobu. Abbiamo appena ascoltato Roads dell'album Fading Building su Coxo Spaziale, la 421esima puntata. Lo continuo a ripetere oggi perché è la prima volta che mi ricordo esattamente il numero della nostra puntata. Parto direttamente, sono qua in diretta con Alessandro Rinaldi dei Corobu. Parto però direttamente a mettere un pezzettino che ci ha mandato Stefano. Anzi no, lo metto dopo la pubblicità perché ormai sono i 27, questo ovviamente va tutto in diretta quello che sto dicendo, quindi benissimo, e ascoltiamo ancora un po' Alessandro, e se hai qualcosa da dire che duri 3 minuti, perché poi alle 20:30 devo drasticamente tagliare qualsiasi discorso super interessante che starai facendo per andare la pubblicità. Ecco, la classica domanda, tipo, e adesso in questi 3 minuti che cosa ci dici? Troppo, troppo poco. Allora, dico che appunto sta uscendo il disco dei Pincushion Queen, ci sarà il release party il 29 al Locomotive, quindi... Tutti invitati, perché in quel contesto poi vedremo il disco, il vinile dei Pincushion, ma anche ci sarà, diciamo, la presentazione della versione bundle del nostro, ovvero vinile più... Stavo per chiederlo, infatti, raccontaci cosa... Allora, praticamente bundle vuol dire che ci sono, assieme al vinile, ci sono delle collaborazioni con artisti come Giulia Mazza, che ha fatto delle bellissime, splendide fotografie legate a ogni pezzo, a un pezzo di testo della canzone. C'è uno scritto, cioè, di proprio ispirato i suoi scatti fotografici alle vostre canzoni, quindi quasi una collabo artistica. No, sono tutte collabo artistiche fatte appunto con la Giulia Mazza, che ha fatto questa cosa. Poi c'è Wu Ming, che ha scritto un pezzo. Poi c'è, Erika Il Cane, che ha fatto 2 tavole originali. Ma che bello, che sono anche quelle che si vedono nel video. Nel video. Poi c'è Marco Rambaldi, lo stilista che si è occupato di fare uno studio su una t-shirt, su un capo. E poi c'è Andrea Bruno, che ha fatto un fumetto. Wow. Mi sto sicuramente scordando qualcuno, ma forse no. Però li salutiamo tutti, se ci siamo scordati qualcuno, ce lo ricorderemo speriamo in tempo per la diretta, se no, certo, sicuramente nelle menzioni, quindi non ti preoccupare. Bellissime tutte queste personalità che hai, che hai insomma nominato, evocano veramente un grandissimo spirito di così collaborazione, influenza, dialogo artistico, bello. Molto bello. Bene, allora ci risentiamo dopo la pubblicità, che adesso mando in diretta, e ascoltiamo un pezzo che invece ci manda Stefano W. Pasquini, sulla mostra che c'è adesso in Pinacoteca. Ok, arrivo, eccoci qua. Anche per quest'anno scolastico. Coxo Spaziale. Ciao Mia, scusa se interrompo la tua fantastica puntata di Coxo Spaziale di stasera, ma ti volevo dire che non potevo non dire ai nostri ascoltatori che sabato scorso ha inaugurato una nuova mostra in Pinacoteca che si chiama Giulio II e Raffaello, una nuova stagione del Rinascimento a Bologna. E siccome questa mostra contiene il ritratto di Giulio II di Raffaello, che di solito sta alla National Gallery di Londra, vi consiglio assolutamente di andarla a vedere. La mostra è su fino al 5 febbraio 2023 a cura di Daniele Benati, Maria Luisa Pacelli ed Elena Rossoni. Sono 8 euro il biglietto intero, e presumo che contenga anche l'ingresso alla Pinacoteca, ma non ne ho la certezza assoluta, ma presumo presumo di sì, 5 euro ridotto, 2 euro ridotto dai 18 ai 25 anni, per cui se avete dai 18 ai 25 anni assolutamente andate a vedere questa mostra, perché appunto contiene un ritratto meraviglioso, oltre ad altri tantissimi lavori rinascimentali che a Bologna in effetti non sono ancora stati abbastanza valorizzati. C'è qui il ritratto di Giulio II di Raffaello Sanzio, e appunto vi faccio sentire le parole di una delle curatrici, Elena Rossoni, che appunto parla di questo ritratto. Si tratta di un ritratto appunto straordinario da tanti punti di vista. Intanto è stato sottolineato come il suo ruolo in questo contesto sia fondamentale, perché unisce queste due figure che hanno costituito un fulcro, un momento di cambiamento proprio per la città, quindi Giulio II e Raffaello. In sé il ritratto non è stato realizzato per Bologna, non è stato realizzato a Bologna, ma proprio grazie alla sottolineare appunto queste due figure fondamentali, perché intanto Giulio II con il suo arrivo in città ha portato questo cambiamento radicale, cioè la gran parte degli artisti precedenti, cioè che lavoravano con i Bentivoglio, lasciarono la città, e lui, come accennava prima la dottoressa Pacelli, portò con sé la grande arte romana, e dall'altra parte appunto Raffaello, che è stato il grande rinnovatore. Il dipinto viene appunto dalla National Gallery di Londra e si inserisce nell'importante produzione ritrattistica di Raffaello, straordinario ritrattista, sappiamo appunto la grande produzione di altissima qualità. Ma cos'ha di particolare appunto questo ritratto? Intanto è un ritratto che è stato attribuito, riconosciuto come di Raffaello solo a partire dalla fine degli anni 60, perché di questo dipinto esistono numerose copie, numerosissime copie anche di alta qualità. Pensate che ad esempio a Firenze c'è una copia attribuita a Giulio Romano, un'altra attribuita a Tiziano, e quindi è un ritratto che ha avuto un grandissimo di successo proprio come copie, ma poi soprattutto è diventato il modello del ritratto dei papi, perché è stato il punto di riferimento per la gran parte della ritrattistica successiva. È un ritratto in qualche modo ancora in fondo misterioso e che continua a porre interrogativi, che anche questa volta abbiamo cercato di affrontare e di fare nuove ipotesi, perché in particolare perché si tratta del ritratto, come si diceva, di un papa guerriero, di un papa che andava in guerra, che si dice scavalcava le mura della città, di un papa collerico, di un papa forte, e quindi ci si trova invece di fronte a questa immagine apparentemente molto mesta, molto dimessa, tanto che in passato la gran parte della critica l'ha interpretato come un ritratto del papa malato, debole, in un momento di crisi. Era un momento di crisi quello in cui venne realizzato questo ritratto, siamo intorno al 1511-12, perché erano i momenti di grande scontro del papato, soprattutto con la Francia, e il papa cerca di appunto conquistare territorio, ma lo perde anche, perché Bologna a un certo punto, dopo essere stata conquistata nel 1506, torna ai Bentivoglio, e quindi per circa un altro anno viene di nuovo tolta, sottratta alla Chiesa. Quindi era certamente un momento di debolezza, però non ce lo riusciamo a immaginare un papa con quel carattere che si fa raffigurare in un momento di debolezza. Poi ci sono anche altri elementi legati al fatto che in questi anni il papa si fa crescere la barba, altra cosa stranissima, perché i papi erano secoli che non si facevano crescere la barba, ed era un papa che teneva moltissimo, sia dal momento della sua designazione, alla propria rappresentazione, alla comunicazione, a come doveva comparire ed essere interpretato da parte del pubblico. La mostra, appunto, come dicevo, sta su fino al 5 febbraio alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, in via Belle Arti 56, assolutamente non mancatela. Wow Stefano, veramente bellissimo questo stacchetto di cultura mostre, e grazie mille, perché sembra veramente molto molto Molto bello, molto interessante anche le parole di Elena Rossoni. E quindi niente, direi che andiamo prestissimo a vederci la mostra in Pinacoteca. Bentornati in diretta, bentornati su Coxo Spaziale, siamo Radio Città Fujiko con degli ospiti musicali. Abbiamo qua con noi Alessandro Di Corobu, che ci sta facendo sentire tutto il suo bellissimo disco che è uscito ad aprile e che insomma si sta un po' rilanciando con il progetto che avete il 29 al Locomotive. Poi metteremo tutti i vari link su coxospaziale.blogspot.com e non lo so, io ho qua degli altri bellissimi pezzi che vorrei mettere, Alessandro. C'ho Get Lost, che mi fa una voglia pazzesca. Se vuoi anticipare qualcosa su Get Lost, oppure se vuoi dire qualcosa agli ascoltatori di voi. Get Lost, come raccontavamo prima, insomma, è un po' la pecorella nera che poi è diventata insomma una principessa all'interno della grande tracklist di Fading Building. E è un pezzo che richiama un po' un circo sgangherato che arriva da lontano con urla e strepiti, con una parte centrale molto romantica e un finale ancora più folle dell'ingresso, ecco. Wow, allora lo metto subito, il nostro Get Lost. Wow, è come non innamorarsi di questo pezzo, anch'io se sono d'accordo con tutti quelli che l'hanno insomma incitato, complimentato questo Get Lost, a parte anche il titolo, sinceramente mi piace molto, e poi questo salire, arrivare, poi abbandonarsi come un treno che passa e se ne va, mi è piaciuto tantissimo, quindi sono contenta. Grazie. Che questo piccolo brutto anatroccolo sia stato messo nel disco, nel mazzo. Chi è che non voleva metterlo? C'era sì, c'era, diciamo, non si può che dire. No, si può dire, anche perché insomma è una cosa sulla quale ci ridiamo e ci scherzavamo. Eravamo io e Christian la fazione pro, e invece Giallo era contrario, però poi appunto ha cominciato a provarlo. No, poi appunto dovevamo fare un live che poi non è andato in porto per varie ragioni, e siccome non in questo live dovevamo fare una scelta di pezzi da portare, io e Christian eravamo per portare tanti altri pezzi ma non Get Lost, mentre Giallo spingeva fortissimo per Get Lost, e quindi ecco, si è tutto un po' riequilibrato, come ti dicevo anche prima, insomma. Certo, beh, bellissimo, mm-hmm. Bellissimo. Bene, e metto un altro pezzo che possiamo considerare l'angolo della menzione di Stefano, detta dalla nostra carissima ex parte di Coxo Spaziale, Chiara Pergola, che salutiamo, così poi abbiamo ancora il tempo di ascoltarci un Interstellar. Che cosa ne pensi? Va benissimo. Ottimo, allora cara Chiara, grazie mille per quest'audio che adesso cercherò di far partire, nel quale ci racconti un appuntamento da non perdere. Ecco qua che parte. Carissima Mia da Schio su PA, che bel nome che hai, è perfetto per la trasmissione Coxo Spaziale. Io sono molto dispiaciuta di non essere con voi stasera, e ogni tanto mi paleserò durante il corso dell'anno, soprattutto perché vedo che Pasquini ti ha completamente abbandonato al mixer, e un po' me l'immaginavo che avrebbe attuato questa strategia. Comunque perdoniamolo, gli si vuole sempre un gran bene. Ti mando questo vocale anche per ricordare che questo fine settimana, nell'ambito della mostra Mutaforma, Mutazioni del codice CZ, che starebbe per Carlo Zauli, ci saranno due incontri dedicati all'approfondimento di lavori di alcuni artisti e artiste. Sabato ci sarà un focus su Sergia Avveduti dalle 10.30 alle 12, e domenica, udite su di me, Chiara Pergola. Quindi chi volesse prenotarsi per partecipare a questa colazione di lavoro, e domenica mattina sicuramente sarà tale, può mandare una mail a info@alchemilla43.it. Vi aspetto numerosi per riempirvi di badge. Wow, Chiara, assolutamente sì, non mancheremo, e soprattutto perché mi è parso di capire colazione di lavoro anche, no? Scriveremo per prenotarci domenica. So già che Stefano ha detto, adesso lo dico anche in diretta così ormai si prende questa responsabilità, ha detto che sarà sicuramente presente domenica, e io farò il massimo per esserci. Siamo qua su Coxo Spaziale, Radio Città Fugico, con Corobo. Alessandro Rinaldi ci sta facendo ascoltare un pezzo più bello dell'altro dell'album Fading Buildings, e io sono veramente, non so, penso che mi ascolterò Get Lost tutta la settimana, posso dire, soprattutto avendo saputo che non voleva essere messa nel disco, ragazzi. bene, che cosa ci vuoi raccontare? Abbiamo ancora 10 minuti insieme, e quindi tutte le news, tutti i retroscena, tutte le cose da assolutamente sapere di questo fantastico trio fatto da Alessandro Rinaldi, Gian Lorenzo De Sanctis e Christian Battiferro, che ricordiamolo, tu sei alla chitarra e al synth, giusto? Esatto. E poi invece c'è Gian Lorenzo che è anche lui basso, synth e voce, e poi c'è Christian che ha la batteria, le percussioni, però insomma questo sostanzialmente dal vivo. In realtà in fase di registrazione ci siamo un po' dati il cambio tutti, abbiamo fatto tutti un giro sulla macchina dell'altro, e quindi wow, la cosa, insomma, nel disco è un po' più mescolata. Insomma, Christian ha suonato i synth, io e Giallo abbiamo suonato diverse volte la batteria, dei fill di batteria. Beh, insomma, ci siamo un po' scambiati, divertiti. Wow. E poi ti racconterei molto volentieri, se posso, di, e che con l'occasione lo ringrazio poi anche, perché insomma è sempre bello ringraziare e ricordare. E, insomma, Erika il cane, che ci ha fatto le cover del disco, nonché, appunto, come dicevo prima, le due stampe originali al suo interno. E le due stampe originali raccontano la storia e lo storytelling del video di Rhodes, sempre fatto da lui in stop motion, che racconta delle vicissitudini, insomma, di questo piccolo topolino anarchico e sabotatore che viene disturbato all'interno della sua tana da un macchinario di umana fattura che emette dei suoni disturbanti, delle immagini e scrive delle cose, insomma è come una sorta di macchina da scrivere un po' più elaborata, però insomma tutta una cosa gigante e molto spaventosa per questo piccolo topo che sta tranquillo nella sua tana. Insomma, decide di fare un buco e di uscire per capire dall'altra parete che cosa c'era che lo disturbava, e vede, si terrorizza, però poi insomma rinuncia a questa sua mandorla per andarla a infilare in un ingranaggio di questo macchinario per bloccarlo e fare in modo, insomma, che questo manicomio smettesse di esistere. Wow. E questo topolino ce l'ha un nome? Ti prego, dimmi di sì. No, perché alla fine tutti i personaggi di Erika il cane non hanno, diciamo, dei nomi propri, ma rappresentano tutti qualcosa. E anche una moltitudine, magari. Anche in questo una caso, moltitudine, potrebbe... sì, assolutamente sì. Però ecco, nel nostro caso non ha un nome il topolino, è sempre stato un beniamino nostro, ma senza nominarlo, ecco. Certo, stupendo. Senti, ho pensato che potresti raccontarmi, se vuoi, ancora qualcosina e poi chiudo con Interstellar. Che cosa ne pensi? Certo, assolutamente sì. Allora, abbiamo detto il 21 al 29, prossimi appuntamenti. State lavorando, una cosa che non abbiamo ancora detto, state lavorando a qualche nuovo pezzo? State componendo? Sì, assolutamente sì. Siamo già con la testa, insomma, sul disco nuovo. E adesso da qui a breve, che potrebbe essere forse addirittura prima della fine dell'anno, se si incastrano bene alcune cose, al massimo all'inizio dell'anno prossimo usciamo con un nuovo singolo. E quindi ecco, insomma, questi sono i primi traguardi che ci stiamo mettendo davanti. Nel frattempo stiamo incrociando le dita perché i concerti, insomma, le date si incastrino e la piccola tournée che abbiamo in testa, insomma, si realizzi, e quindi durante l'inverno, insomma, dovremmo riuscire a infilare qualche data per lo stivale e chissà, forse addirittura fuori. Adesso bisogna avere un po' di pazienza, però insomma i progetti sono questi qui. Wow, allora abbiamo tantissimi nuovi appuntamenti in vista. Io, Alessandro, ti ringrazio tantissimo per questa tua presenza, per la tua presentazione di questi pezzi, di questo album. E ringrazio tantissimo anche Elisa, che mi ha consigliato caldamente, diciamo, l'ascolto di alcuni dei pezzi, e devo dire che Elisa ha un ottimo gusto musicale, perché mi sono innamorata immediatamente anch'io di tutte queste canzoni, devo dirti la verità. Sì. E ringrazio Giallo e Alessandro. Se tu vuoi salutare qualcuno, a te la parola. Io saluto, vabbè, Giovanni Gandolfi, che è il boss un po' della Locomotive Records, assieme agli altri Mike Gianpichetti di Locomotive, che ci hanno aiutato insomma a fare questa uscita, e poi Gianluca di Pentagon che ci aiuta con le date, e poi ringrazio anche il nostro amatissimo fonico che si chiama Bruno Germano, che è anche quello che ci ha fatto il mix del disco e il che ha curato insomma tutto il mix e la fase finale delle registrazioni, e che ci segue dal vivo. Wow, e allora grazie a tutti, e sentiamo, io ero sia Stefano W. Pasquini che Mia Daschio Suppiei, e questa era Coxo Spaziale, e salutiamo tutti quanti con le parole del nostro direttore, che dice così: a livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Thank you.